Terzo anello ad alta voce. Il processo di Franz Kafka. A K sembrava di avere il mal di mare. Credeva di essere su una nave in mezzo a una tempesta. Era come se l'acqua precipitasse contro le pareti di legno, se dal fondo del corridoio venisse un rombo di acque che ricadevano, come se il corridoio oscillasse da un lato all'altro, e gli imputati in attesa dalle due parti si sollevassero ed abbassassero. La calma dell'uomo e della ragazza che lo conducevano diventava tanto più incomprensibile. Era nelle loro mani. Se lo lasciavano sarebbe caduto come una tavola. I loro piccoli occhi lanciavano sguardi penetranti qua e là. K sentiva i loro passi regolari e non li poteva accompagnare con i suoi, perché era quasi sollevato di passo in passo. Infine si accorse che gli rivolgevano la parola, ma non li capiva. Sentiva solo il rumore che riempiva tutto e sembrava attraversato da un suono acuto, immutabile, come quello di una sirena. «Più forte!» sussurrò a capo chino e si vergognò, perché sapeva che aveva parlato abbastanza forte, anche se in modo per lui incomprensibile. Finalmente, come se la parete davanti a lui si fosse squarciata, fu investito da un soffio di aria fresca e sentì dirsi vicino: «Prima se ne vuole andare, ma poi gli si può dire 100 volte che qui è l'uscita e lui non si muove!» K si accorse di stare davanti alla porta d'uscita aperta dalla ragazza. Fu come se tutte le forze gli tornassero di colpo. Per gustare in anticipo la libertà, scese subito un gradino e di lì salutò i suoi accompagnatori, che si chinarono alla sua volta. «Grazie, grazie!» ripeteva, continuando a stringere le loro mani, e smise soltanto quando gli parve di accorgersi che mal sopportavano, abituati com'erano agli uffici, l'aria relativamente fresca che arrivava dalla scala. Nel periodo successivo non fu possibile a K scambiare con la signorina Burstner neppure qualche parola. Tentò in tutti i modi di avvicinarla, ma lei riuscì sempre a impedirlo. Subito dopo l'ufficio andava a casa, restava nella sua camera senza accendere la luce, seduto sul canapè, attento solo a tenere d'occhio l'anticamera. Se la domestica nel passare chiudeva la porta della camera in apparenza vuota, dopo un poco lui si alzava e la riapriva. La mattina si alzava un'ora prima del solito per vedere se riusciva ad incontrare la signorina Burstner da sola quando andava in ufficio, ma non gli riuscì nemmeno una volta. Allora le scrisse una lettera, indirizzandola sia in ufficio sia a casa, nella quale cercava ancora una volta di giustificare la sua condotta. Si dichiarava disposto ad ogni riparazione, prometteva di non superare mai i limiti che lei gli avesse posto e la pregava soltanto di dargli la possibilità di parlarle una volta. Le lettere non tornarono indietro, ma non seguì neppure una risposta. La domenica vi fu invece un segno abbastanza chiaro. Già la mattina presto, attraverso il buco della serratura, K notò un movimento insolito nell'anticamera che in breve riuscì a spiegare. Un insegnante di francese, che d'altronde era tedesca e si chiamava Montag, una ragazza debole, pallida, un po' zoppa, che fino ad allora aveva occupato una camera propria, traslocava nella camera della signorina Burstner. La si vide ciabattare per ore attraverso l'anticamera. C'era sempre un capo di biancheria dimenticato, o una piccola coperta, o un libro, che doveva andare a prendere e trasferire nella nuova stanza. Quando la signora Grubach portò a K la colazione, dal giorno che aveva fatto tanto incollerire K non affidava alla domestica neppure il più piccolo servizio, K non poté trattenersi dal rivolgerle per la prima volta dopo 5 giorni la parola. «Perché oggi tanto baccano in anticamera?» chiese mentre versava il caffè. «Non si potrebbe smetterla? Bisogna fare le pulizie proprio di domenica?» Sebbene non alzasse gli occhi verso la signora Grubach, K notò che questa tirava un respiro come di sollievo. Persino quelle domande aspre lei le prendeva come perdono o inizio di perdono. «Non facciamo le pulizie, signor K», disse. «La signorina Montag sta traslocando dalla signorina Burstner e porta là le sue cose». Thank you. K alzò gli occhi sulla signora Grubach e disse: «Ha abbandonato il sospetto che aveva sulla signorina Brustner?» «Signor K», esclamò la signora Grubach, che aveva atteso solo questa domanda, e tese verso K le mani giunte. «Giorni fa lei dette tanto peso a un'osservazione occasionale. Non pensavo neppure alla lontana di offendere lei o chi che sia. Mi conosce ormai da un pezzo, signor K, per esserne convinto. Non sa quanto ho sofferto in questi ultimi giorni. Io calunniare i miei pensionanti. E lei, signor K, lo credeva. E diceva che dovevo sfrattarla. Sfrattare lei!» L'ultima esclamazione era già soffocata dalle lacrime. Portò il grembiule al viso e prese a singhiozzare forte. «Via, non pianga, signora Grubach», disse K, guardando fuori dalla finestra. Pensava solo alla signorina Bustner e al fatto che avesse accolto una ragazza estranea in camera. «Via, non pianga», ripeté quando si volse di nuovo verso la camera, e la signora Grubach piangeva ancora. «Neppure io quel giorno intendevo dire cose tanto brutte. Ci siamo capiti male a vicenda. Una volta può succedere, anche tra vecchi amici.» La signora Grubach fece scendere il grembiule sotto gli occhi per vedere se K era davvero riconciliato. «Ma sì, è così», disse K. E siccome l'atteggiamento della signora Grubach faceva concludere che il capitano non aveva rivelato nulla, si azzardò ad aggiungere: «Crede veramente che potrei inimicarmi in lei per un'estranea?» «È quanto mi dicevo anch'io, signor K», disse la signora Grubach, che per sua disgrazia, non appena si sentiva un po' più libera, diceva subito una frase inopportuna. «Continuavo a chiedermi perché al signor K sta tanto a cuore la signorina Bustner. Perché per causa sua bisticcia con me, sebbene sappia che ogni cattiva parola venuta da lui mi toglie il sonno. Sul conto della signorina non ho detto altro di quanto ho visto coi miei occhi.» Di fuori si udì il passo strascicato della signorina Montag, che attraversava tutta l'anticamera. «Lo sente?» chiese K, e con la mano indicò la porta. «Sì», disse la signora Grubach con un sospiro. «Volevo aiutarla e farla aiutare dalla domestica, ma è un'ostinata, vuole trasportare tutto da sé. Mi meraviglio della signorina Bustner. Spesso mi secco di avere in casa la signorina Montag, ma la signorina Bustner se la prende addirittura in camera.» «La cosa non deve preoccuparla», disse K, schiacciando il resto dello zucchero nella tazza. «Che danno le fa?» «Nessuno», disse la signora Grubach. «In sé per sé la cosa mi fa piacere, mi si libera una camera dove posso sistemare mio nipote, il capitano. Da un po' temevo che in questi ultimi giorni, costretta come ero stata a farlo dormire qui accanto nel salotto, potessi averla disturbata. Non ha molti riguardi.» «Che idee!» disse K, e si alzò. «Non parliamone. Lei a quanto pare mi considera troppo sensibile, perché non sopporto queste passeggiate della signorina Montag. Eccola che torna indietro.» La signora Grubach si sentì del tutto impotente. «Debbo dirle, signor K, che rimandi l'ultima parte del trasloco. Se vuole lo faccio subito.» «Ma deve traslocare dalla signorina Bustner», disse K. «Sì», disse la signora Grubach, senza capire bene cosa K volesse dire. «Allora», disse K, «deve pur portare là le sue cose.» La signora Grubach si limitò ad annuire. Quel muto smarrimento, che esteriormente non sembrava altro che ostinazione, indispettì K ancora di più. Cominciò ad andare dalla finestra alla porta e viceversa, togliendo così alla signora Grubach la possibilità di allontanarsi, come forse avrebbe fatto. K era di nuovo proprio vicino alla porta quando bussarono. Era la domestica, venuta a riferire che la signorina Montag avrebbe volentieri scambiato due parole con K e che lo pregava perciò di andare in sala da pranzo, dove lo aspettava. K ascoltò pensieroso la domestica. Poi si voltò a guardare con un'aria quasi ironica la signora Grubach, tutta spaventata. Thank you. Quando K entrò, la signorina Montag gli venne incontro dalla finestra lungo un lato della tavola. Si salutarono in silenzio. Poi la signorina Montag, con la testa, come sempre sollevata fuori dall'ordinario, disse: «Non so se mi conosce». K la guardò strizzando gli occhi. «Certo», disse. «È un pezzo che lei abita dalla signora Grubach». «Ma lei non si interessa molto, credo, della pensione», disse la signorina Montag. «No», disse K. «Non vuole sedere?» disse la signorina Montag. Ognuno trasse fuori in silenzio una seggiola all'estremità della tavola e sedette di fronte all'altro. Ma la signorina Montag si rialzò subito, perché aveva lasciato la borsetta sul davanzale della finestra, e arrancò attraverso tutta la stanza. Quando tornò, facendo oscillare appena la borsetta, disse: «Vorrei solo dirle due parole per incarico della mia amica. Voleva venire lei, ma oggi sta poco bene. La prega di scusarla e di ascoltare me al suo posto. Del resto, avrebbe potuto dirle solo quanto io le dirò. Credo anzi che io potrò dirle di più, perché fino ad un certo punto non sono interessata. Non lo pensa anche lei?» «Cosa ci sarebbe dunque da dire?» rispose K, stanco di vedere gli occhi della signorina Montag fissi sulle sue labbra. Con ciò lei si arrogava già un diritto su quello che lui avrebbe detto. «Evidentemente la signorina Bustner non vuole concedermi di persona la spiegazione che le avevo chiesto». «È così», disse la signorina Montag. «O meglio, non è punto così. Lei si esprime con crudezza eccessiva. Le spiegazioni di solito non si concedono né si rifiutano, ma può succedere che si considerino inutili, e questo è il caso. Ora, dopo la sua osservazione, posso parlare chiaro. Lei, a voce o per iscritto, ha chiesto alla mia amica un colloquio. La mia amica però conosce l'argomento del colloquio, almeno così debbo supporre, ed è quindi convinta, per ragioni che non conosco, che se il colloquio avvenisse realmente, non gioverebbe a nessuno». «La ringrazio», disse subito K. Si alzò adagio, guardò la signorina Montag, poi lungo la tavola, poi fuori dalla finestra. La casa dirimpetto era illuminata dal sole e si avviò verso la porta. La signorina Montag lo seguì per alcuni passi, come se non si fidasse del tutto. Ma davanti alla porta dovettero farsi indietro tutti e due, perché questa si aprì ed entrò il capitano Lanz. K lo vedeva da vicino per la prima volta. Un uomo alto, sulla quarantina, con un viso carnoso, bruciato dal sole. Fece un leggero inchino, destinato anche a K, quindi mosse verso la signorina Montag e le baciò rispettosamente la mano. Era molto sciolto nei movimenti. La sua gentilezza nei confronti della signorina Montag era in netto contrasto con i modi usati da K verso di lei. Ciò nonostante, la signorina Montag non sembrava essere in collera con K, perché, come K credette di notare, voleva persino presentargli il capitano. Ma K non volle essere presentato. Non sarebbe stato capace di essere gentile né verso il capitano né verso la signorina Montag. Quel baciamano l'aveva per lui legata a un gruppo che, con l'apparenza più inoffensiva e disinteressata, voleva tenerlo lontano dalla signorina Bustner. K credette di notare non solo questo. Notò anche che la signorina Montag aveva scelto un mezzo idoneo, seppure a doppio taglio. Lei esagerava l'importanza del rapporto tra la signorina Bursner e K. Esagerava soprattutto l'importanza della spiegazione richiesta, girando al tempo stesso le cose, quasi fosse K ad esagerare. Doveva disilludersi. K non voleva esagerare nulla. Sapeva che la signorina Bursner era una piccola dattilografa incapace di resistergli a lungo. E in ciò, di proposito, non teneva conto di quanto aveva appreso dalla signora Grubach riguardo alla signorina Bursner. Era a questo che pensava mentre, salutando appena, usciva dalla stanza. Qualche sera dopo, K percorreva il corridoio che separava il suo ufficio dalla scala principale. Questa volta era quasi l'ultimo a lasciare la banca. Solo nell'ufficio spedizioni lavoravano ancora due commessi. Quando dietro una porta, dietro la quale aveva sempre immaginato un ripostiglio, sentì emettere dei sospiri. Si fermò stupito e tese ancora l'orecchio per stabilire se non sbagliava. Ci fu qualche momento di silenzio. Poi i sospiri ripresero. Lo prese una curiosità irresistibile al punto che spalancò la porta. Era proprio come aveva immaginato, un ripostiglio. Oltre la soglia, al suolo, vecchi stampati inservibili, bottiglie da inchiostro di terraglia, vuote e rovesciate. Ma nello stesso stanzino stavano in piedi tre uomini, curvi sotto il soffitto basso. Dava loro luce una candela fissata su uno scaffale. «Che fate qui?» chiese K, mangiando le parole per l'eccitazione, ma non forte. L'uomo, che evidentemente dominava gli altri e per primo attirava lo sguardo, era inguainato in una specie di abito di pelle nera, che lasciava nudo il collo sino in fondo al petto e tutte le braccia. Questi non rispose, ma gli altri due esclamarono: «Signore, dobbiamo essere bastonati, perché tu ti sei lagnato di noi con il giudice istruttore». Solo a questo punto K riconobbe che erano proprio le guardie Franz e Willem, e che il terzo stringeva in mano una verga per bastonarli. «Beh», disse K fissandoli, «io non mi sono lagnato, ho detto solo quello che è successo in casa mia. E di sicuro non vi siete comportati in modo ineccepibile». «Signore», disse Willem mentre Franz cercava di proteggersi dal terzo dietro di lui, «se sapeste quanto siamo pagati male, ci giudicareste meglio. Io ho una famiglia da mantenere e Franz voleva sposare. Uno cerca di fare soldi come può. Col lavoro soltanto non si riesce, nonostante ogni sforzo. La vostra bella biancheria mi aveva tentato. Naturalmente alle guardie è proibito comportarsi così. Non era lecito. Ma è tradizione che la biancheria appartenga alle guardie. È stato sempre così. Credetemi. E si capisce che importanza hanno più queste cose per chi ha la disgrazia di essere arrestato». «Non sapevo quanto radite, né ho chiesto in nessun modo la vostra punizione. Per me si trattava di un principio». «Franz», si volse Willem all'altra guardia, «non ti ho detto che il Signore non ha chiesto la nostra punizione? Non sapeva nemmeno, lo senti, che dobbiamo venire puniti?» «Non farti commuovere da simili discorsi», disse il terzo a K. «La pena è tanto giusta quanto inevitabile». «Non starlo a sentire», disse Willem, interrompendosi soltanto per portare svelto alla bocca la mano colpita da una bastonata. «Siamo puniti soltanto perché tu ci hai denunciati, altrimenti non ci sarebbe successo niente, neppure se si fosse venuto a sapere quello che abbiamo fatto. E questa sarebbe giustizia? Noi due, io in particolare, come guardie avevamo dato a lungo buona prova. Tu stesso devi ammetterlo che dal punto di vista delle autorità abbiamo vigilato bene. Avevamo probabilità di farci strada e saremmo presto diventati bastonatori come lui, che ha avuto la fortuna di non essere denunciato da nessuno, perché denunce simili vengono fatte molto di rado». «Non c'è modo di risparmiare le bastonate a questi due?» chiese K al bastonatore. «No», disse il bastonatore e scosse la testa sorridendo. «Spogliatevi», ordinò alle guardie, e a K disse: «Non devi credere a tutto quello che dicono. La paura delle bastonate li ha già resi un po' vaneggianti. Quello che questo qui, per esempio, ha raccontato della sua carriera», e indicò Willem, «è addirittura ridicolo. Guarda com'è grasso. I primi colpi andranno persi nel grasso. Sai come ha fatto a ingrassare tanto? All'abitudine di mangiare la colazione di tutti gli arrestati. Non ha mangiato anche la tua colazione? Vedi, lo dicevo. Ma un uomo con una pancia simile non potrà mai e poi mai diventare un bastonatore. È escluso». Terzo anello, ad alta voce. Il processo di Franz Kafka.